Non è una riforma, è un mezzo, è i soliti mezzi idioti e antipopolari che fa sistematicamente il governo di Kyriakos Mitsotakis per distruggere i diritti del lavoro, che sono stati già abbastanza distrutti in tutti questi anni in cui lui governa. Ci sono tutte le gli accordi che c'erano sui periodi di riposo, eccetera, oppure sulle pensioni, eccetera, sono stati tutti distrutti, e ha imposto queste nuove misure antipopolari, antioperaie, che in effetti provocano queste rivolte molto ampie. Questo è il secondo sciopero generale e non vedo nessun interesse, nessuna suscettibilità da parte del governo di rivedere la sua misura. In realtà si comporta come un dittatore e direi che non è il suo governo, non è molto distante dal regime dei colonnelli, visto che al suo governo ci sono ben 4 sostenitori e collaboratori dichiarati del regime dei colonnelli. Questa è la situazione greca. La devo dire che colgo l'occasione per esprimere la mia rabbia ogni volta che leggo sulla stampa italiana che viene qua qualche giornalista d'estate, specialmente si fa il bagnetto e poi manda un pezzo al giornale in cui sì, la Grecia ha risolto i suoi problemi economici, tutto a posto, sì, l'economia va per la maggiore, sì, tutto a posto, eccetera, eccetera. Queste sono idiozie che vengono sostenute anche da parte dell'Unione Europea per il semplice fatto che dopo tante lotte e tanto impiego autoritario da parte dell'Unione Europea per applicare anche in un paese povero come la Grecia le regole del neoliberismo, finalmente hanno trovato un politico greco il quale le applica senza chiedere il permesso all'Unione Europea. E questa è la grande soddisfazione dell'Unione Europea, che ha portato alla distruzione della Grecia, non solo economica. La Grecia è attualmente un paese depresso dal punto di vista psicologico, senza cultura, senza tempo libero, senza una gioventù che si sta diminuendo perché molti se ne vanno all'estero, per la maggior parte i medici se ne vanno al Golfo Persico da lavorare, e chi invece rimane qua e protesta perché ha dei motivi per protestare subisce una violenza poliziesca a livello di colonnelli, direi. Vengono pescati per strada, poi fermati o arrestati al commissariato, dove vengono torturati di nuovo. I sindacati hanno detto che con questa legge sulle 13 ore di fatto si reintroduce la schiavitù che c'era nel Medioevo. Si reintroduce la schiavitù che c'era all'epoca dei colonnelli. È quello il progetto che Mitsotakis sta portando avanti. Lui ha in mano tutte le richieste che fanno gli amici suoi, gli oligarchi che hanno finanziato anche, che finanziano le sue elezioni ogni volta che ci sono, appunto, le elezioni, la sua campagna preelettorale. Prende tutte le richieste che hanno fatto ai colonnelli e adesso le rifanno di nuovo da capo. All'epoca dei colonnelli non si poteva uscire per strada e manifestare un'opinione. Bene, anche adesso in Grecia non si può fare, non c'è informazione, perché lui ha comprato più o meno tutti i giornali che vendono pochissimo, controlla tutte le televisioni, non c'è problema, non c'è informazione, nessuno sa niente, non va mai in Parlamento. Quindi anche in Grecia ci vediamo una cosa che vediamo anche in Italia e in altri paesi, dove l'estrema destra di fatto si allea col liberismo per imporre le ricette liberiste. Perché il neoliberismo è fatto per favorire l'estrema destra, è un progetto economico per l'estrema destra, fatto appositamente per lei, e viene applicato sistematicamente. Solo che mentre può avere un'efficienza, diciamo, almeno economica negli Stati Uniti, nei paesi poveri è la distruzione. La Grecia è un paese che non ha attualmente neanche un'industria minima. Le sue imprese, piccole imprese, piccoli negozi, eccetera, uno dietro l'altro chiudono perché sono tartassati dalle tasse, perché non servono, secondo Mitsotakis, le imprese piccole greche. Vengono quelle straniere, vengono le multinazionali. Ha teorizzato che la Grecia vivrà, l'unica economia greca sarà il turismo, per cui sta distruggendo una serie di monumenti antichi per costruire, per favorire il turismo, compresa anche la privatizzazione del Partenone. Questa è la Grecia, e se qualcuno viene adesso, che non è stato, non si fanno i bagni, vedrà la depressione e la disperazione che c'è tra i greci. La si vede per strada.